mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il pericolo più serio per la collettività è una rassegnata assuefazione al malaffare, visto come un male senza rimedio. Non possiamo permettere che questo accada. Questo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è il duro monito del presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ha detto queste parole sulle conseguenze che corruzione e malaffare hanno sulla crescita italiana, ma anche, da quello che diceva, anche sul modo di sentire degli italiani, di percepire la realtà e quindi del nostro e del loro, degli italiani in genere, agire di conseguenza. Questo è naturalmente uno delle notizie più importanti di oggi, con quanto la corruzione può determinare il nostro modo di vivere, di pensare, quindi anche la crescita dell'Italia. Però ci soffermeremo nuovamente sul percorso delle riforme, perché oggi c'è stata una nuova puntata e qui in questa puntata di Effetto Notte ne parleremo. Poi parleremo anche di molte altre notizie, tra le quali questa che è appena uscita dalle agenzie, la si aspettava intorno alle 20, è arrivata in questo momento, cioè la sentenza della Cassazione sull'omicidio di Melania Rea. Vi ricordate? Bene. La Cassazione ha chiesto di rivedere al ribasso la condanna a 30 anni di reclusione per Salvatore Parolisi e da eliminare l'aggravante della crudeltà. Questo poi ne parleremo in modo più approfondito, intanto vi racconto anche le altre notizie. La guerra in Ucraina, Putin avvisa Obama, ci sarà destabilizzazione se l'America arma Kiev, strage di civili intanto nell'est del paese. G20 di Istanbul, stop al piano di aiuti alla Grecia e la vigilia dell'Eurogruppo, Berlino avverte nessun accordo domani. Sicurezza, il Consiglio dei Ministri in Italia ha approvato il decreto antiterrorismo, caos e riforme alla Camera, si dimette il relatore di Forza Italia e il governo prova a chiudere per sabato. L'omicidio di Iara, ampliata la gravità indiziaria per Bossetti, respinta la richiesta di scarcerazione per il rischio di reiterazione del reato. I veleni alla Procura di Milano, Robledo ebbe uno scambio di favori con la Lega e per questo il CSM sposta il magistrato al Tribunale di Torino. Immigrazione basta tragedie, sottolinea la responsabile della politica estera europea Mogherini, annuncia una riunione straordinaria. L'anniversario delle foibe, oggi è il giorno del ricordo per quello che accadde 70 anni fa. Sanremo parte stasera il 65esimo Festival della Canzone, si esibiranno 10 dei 20 big in gara tra gli ospiti Tiziano Ferro, Albano e Romina Power. E anche di questo parleremo stasera. Quello che vi chiedo però è di commentare questa affermazione che ha fatto l'onorevole, il parlamentare, il deputato del PD Speranza, il quale ha detto, dopo la rottura del patto Nazareno, Forza Italia è stata al tavolo nell'interesse del paese o nella prospettiva di uno scambio riforme Quirinale? Questo è quello che vi chiedo, se volete di commentare questa sera, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia attraverso gli sms al 349-238-6666, 349-238-6666. Ma partiamo intanto dalla crisi ucraina. Continuano i combattimenti alla vigilia dell'incontro a Minsk sulla crisi nell'est del paese. Oggi il principale quartier generale delle forze ucraine nell'est è stato colpito da alcuni razzi sparati dai ribelli separatisti filorussi. Una quindicina sarebbero i morti, oltre 60 i feriti, tra cui 5 bambini. Una pista di volo e alcuni edifici del comando avanzato nella parte del Donbass controllata dai governativi. La raffica di missili Grad lanciata dalle postazioni separatiste ha colpito e ucciso militari e civili a Kramatorsk, nelle retrovie del fronte di Debaltseve, dove da giorni si concentrano i combattimenti e secondo fonti filorusse 8.000 soldati di Kiev sarebbero ormai accerchiati. L'attacco sembra una risposta alla controffensiva lanciata a sud dalle forze ucraine del battaglione Azov, che ha spinto il fronte meridionale lungo la costa del Mar Nero verso la frontiera russa. russa. È questo il quadro di guerra che porta a Minsk domani per il summit tra Hollande, Merkel, Putin e Poroshenko, dove il presidente francese si dice deciso a ottenere dei risultati, mentre una fonte diplomatica russa definisce improbabile che si possa andare oltre una dichiarazione congiunta. Intanto è Mosca a denunciare Washington per il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev. Gli Stati Uniti cercano di coinvolgere il paese in un conflitto militare interstatale per abbattere Putin e smembrare il paese. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di fronti di guerra, c'è sempre in primo piano anche la lotta all'ISIS e Washington ha confermato oggi la morte della cooperante americana. Venerdì scorso l'ISIS aveva annunciato la morte della giovane cooperante americana rapita in Siria nell'agosto 2013 a Raqqa sotto i bombardamenti dell'aviazione giordana, ma senza mostrarne il corpo. Oggi la terribile notizia. Con il cuore infranto vi confermiamo che Kayla Jean Muller è morta, ha annunciato la famiglia. Le circostanze non sono note. Quello che si sa è che gli jihadisti nei giorni scorsi hanno mandato un messaggio, forse anche delle foto, ai familiari della ragazza per provarne la morte. Materiale esaminato dall'intelligence americana. Non importa quanto tempo occorrerà, gli Stati Uniti troveranno e assicureranno alla giustizia i terroristi responsabili della sua cattura e della sua uccisione, promette il presidente Barack Obama. E nelle ultime ore i genitori hanno diffuso una lettera scritta dalla figlia durante la prigionia nella primavera del 2014. Ho avuto molto tempo per pensare a tante cose che vorrò fare, il nostro primo viaggio in campeggio, il primo incontro in aeroporto, la speranza di vedervi è la fonte della mia forza. Forza, scriveva Kayla. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi in Egitto un altro orrore testimoniato da un video. Il gruppo jihadista egiziano che si fa chiamare provincia del Sinai e che a novembre ha dichiarato fedeltà al sedicente Stato Islamico ha mostrato la decapitazione di 10 uomini accusati di essere spie del Mossad, cioè dei servizi segreti israeliani. Timori anche in Italia, dove nel tardo pomeriggio di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto antiterrorismo. E a proposito invece di immigrazione, l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, ha annunciato che nei prossimi giorni convocherà una riunione straordinaria per rivedere le politiche europee sull'immigrazione. Non possiamo permettere alle tragedie in mare, dice, dobbiamo essere capaci di dare una forte risposta politica e operativa. Grecia, che continua a essere il nodo centrale dei vertici europei internazionali, come oggi al G20 di Istanbul, in attesa del vertice dell'Eurogruppo domani per decidere come gestire la difficile questione del debito. Tuttavia fonti dell'Unione Europea hanno sottolineato di non attendersi una soluzione, diciamo, a breve, almeno entro questa settimana. Andiamo all'economia italiana, per la quale dei dati positivi sono arrivati dalla produzione industriale, ma preoccupa, come sentivate all'inizio, la corruzione. Consueta fotografia sul paese da parte della magistratura contabile. L'istantanea per quest'inizio 2015 non è delle migliori, secondo l'analisi della Corte dei Conti. Crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso nel quale l'una è causa ed effetto dell'altra, spiega il presidente Raffaele Squitieri. La ricerca talvolta affannosa di strategie di uscita dalla crisi e la competizione esasperata per l'accesso a risorse limitate favoriscono infatti la pratica di vie illecite e di attività illegali. Ciò si riversa naturalmente e negativamente sull'efficienza del sistema complessivo. Il pericolo più serio per la collettività è una rassegnata assuefazione al malaffare, visto come un male senza rimedi, dice ancora Squitieri. Non possiamo permettere che questo accada. Non possiamo lasciare che prenda forza l'idea di una società incapace di compiere scelte collettive, di perseguire a livello di amministrazione pubblica obiettivi concreti e di garantire un sistema di servizi efficienti e sostenibili. Non solo ombre però nell'analisi della Corte dei Conti si sono venuti ad innestare negli ultimi tempi elementi di novità di grande rilievo, spiega ancora il presidente Squitieri, come le recenti decisioni della BCE, il ribasso del petrolio e la rinnovata flessibilità europea. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E arriviamo alla politica dei partiti. Dopo la rottura del patto del Nazareno, ripartono le tensioni sulle riforme. Sarà la lunga settimana delle riforme a Montecitorio sul Senato non elettivo, anche se il ministro Maria Elena Boschi assicura che sabato si chiude, malgrado l'ostruzionismo di Forza Italia che insieme a Lega e Movimento 5 Stelle presenta 2500 subemendamenti. Il PD non teme i numeri alla Camera, così il capogruppo Roberto Speranza. Il fatto che la maggioranza delle riforme sia più debole, più stretta, non è un fatto positivo per noi. Ma non ci sono poteri di veto. Noi andremo avanti perché continueremo a seguire l'interesse del Paese. Il primo gesto della rottura del patto del Nazareno sono le dimissioni da relatore di Francesco Paolo Sisto, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Le scelte di Forza Italia, di seguito all'incolpevole scioglimento del patto costituzionale con il PD, sono incompatibili con il mio ruolo di giocatore, di centravanti di punta di questo provvedimento. Rinuncio al ruolo di relatore di questo provvedimento. Poi però nel pomeriggio Renato Brunetta parla di opposizione responsabile, anche se durante le votazioni scricchiola la ritrovata alleanza con la Lega, che vota insieme al PD contro gli emendamenti di Forza Italia che aumentavano le competenze dello Stato a discapito delle regioni. Intanto l'Aula approva una modifica al titolo quinto che dà allo Stato competenza esclusiva sulle politiche sociali. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Più tardi poi, come dicevo, parleremo con il dimissionario relatore Sisto di Forza Italia. Andiamo sulla cronaca giudiziaria. Intanto avete sentito appunto la notizia che vi davo all'inizio sull'omicidio di Melania Rea. La Cassazione ha chiesto per Salvatore Parolisi, unico indagato e unico in carcere insomma per questo omicidio, di abbassare la pena dei 30 anni a cui è stato condannato. E poi c'è l'omicidio di Yara. La GIP di Bergamo ha respinto la richiesta di scarcerazione per Massimo Bossetti, in carcere dal 16 giugno per l'omicidio di Yara Gambirasio. Tra i motivi, a quanto si è saputo, il fatto che rimangono gravi indizi di colpevolezza per Massimo Bossetti, alla luce di quanto depositato di recente dai PM si è ampliata la gravità degli indizi nei suoi confronti. Ma il motivo più importante è che esiste, secondo la PM, il pericolo di reiterazione del reato. Sono le ricerche nel computer di Bossetti riguardanti minori fino al maggio 2014 e la testimonianza di una donna che ha detto di averlo visto l'estate prima dell'omicidio di Yara con una ragazzina fuori dalla palestra di Brambate a motivare il pericolo di reiterazione del reato. E parliamo anche di un nuovo femminicidio. Ho ucciso mia moglie perché ho scoperto che mi tradiva. Così Lucian Valselian, romeno di 28 anni, arrestato oggi a Borgaro Torinese, ha spiegato i motivi per cui ieri pomeriggio ha ucciso la moglie di appena 26 anni. È stato un raptus di gelosia, ha detto non sono riuscito a fermarmi, così ha riferito ai carabinieri, per due ore interrogato nella caserma di Venaria. E poi le vicende dei veleni che hanno riguardato la procura di Milano. Deve lasciare Milano e non può più fare il PM. Alfredo Robledo, il magistrato protagonista dello scontro col procuratore Edmondo Bruti Liberati, così ha stabilito la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, accogliendo la richiesta del procuratore generale della Cassazione, che imputa a Robledo uno scambio di favori con l'avvocato della Lega Domenico Aiello, e Robledo è stato trasferito al Tribunale di Torino con funzioni di giudice. Parliamo naturalmente anche dell'anniversario delle foibe. Oggi è il giorno del ricordo per non dimenticare quello che accadde 70 anni fa, una pagina delle più cupe della storia contemporanea, avvolta a lungo nel silenzio, nel buio. Nel 1945, tra il 43 e il 47, oltre 10.000 persone furono gettate vive nelle foibe, le cavità carsiche ai confini orientali, o uccise dopo processi sommari dai comunisti di Tito in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e in Dalmazia. Il presidente Mattarella, dopo aver partecipato oggi alla celebrazione del giorno del ricordo che si è tenuta nella Camera dei Deputati, ha dichiarato: il Parlamento, con decisione largamente condivisa, ha contribuito a sanare una ferita profonda nella memoria e nella coscienza nazionale. E poi Sanremo, stasera parte la 65esima edizione, e ieri abbiamo avuto qui Enrico Ruggeri, me ne parleremo però più tardi, poi vediamo se è il caso, se abbiamo tempo anche di alzare un po' il volume sul festival. Per chiudere, il nostro calcio guarda sempre di più ad Oriente. I diritti TV della Serie A e della Nazionale sono ora in mani cinesi. Il colosso Dalian Wanda, il gruppo immobiliare guidato da Wang Jianlin, il secondo uomo più ricco della Cina, ha infatti acquistato Infront Sports & Media, società svizzera attiva nel marketing sportivo, nonché advisor pubblicitario, insieme al gruppo 24 Ore, per la Federcalcio. 1,50 miliardi di euro quanto sborsato da Dalian Wanda per subentrare al fondo di private equity europeo Bridgepoint, che aveva rilevato nel 2011 il gruppo Infront, detentore di diritti TV per il campionato italiano e per altri grandi eventi sportivi. Infront Italy, che pesa per oltre un terzo del fatturato del gruppo, è di fatto l'ex società Media Partners di Marco Bogarelli, che dovrebbe rimanere presidente del ramo italiano del colosso. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore. E prima di lasciarvi agli aggiornamenti, per chi sta ascoltando Effetto Notte viaggiando, vi ricordo che se volete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli SMS al 349-238-6666 potete per esempio rispondere alla domanda che si pone l'onorevole Speranza del PD dopo la rottura del patto nazareno, che dice: ma Forza Italia è stato al tavolo delle riforme nell'interesse del paese o nella prospettiva di un possibile scambio riforme Quirinale, quindi di avere un nome al Quirinale secondo Speranza. Quindi potete continuare a fare i vostri commenti. Leggo per esempio, mentre sta iniziando Sanremo, dunque Fina dice: la seconda che hai detto, quindi insomma non nell'interesse del paese secondo lei. Elena dice: l'interesse del paese è l'ultimo problema, mi sembra. Se poi per l'intervento di Bersani, che ha convinto Renzi ad eleggere un capo dello Stato che non sfasciasse definitivamente il PD, ha fatto sorgere qualche problema tra Renzi e Berlusconi, parliamone, onorevole Speranza. Vogliamo alzare un attimo Sanremo? Trionfale ingresso di Carlo Conti sul palcoscenico dell'Ariston, tutto blu, tutte luci blu, sfondi blu, lui vestito in blu, mi sembra di capire. Sì. Edizione numero 65 del Festival di Sanremo. Abbiamo iniziato con un classico meraviglioso, Fanfare for the Common Man, una fanfara dedicata alla gente comune, cioè a tutti noi. È comunque in inglese, la canzone. Da 65 anni. Sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E vi ricordo le notizie con l'Ucraina che si infiamma oggi, un'altra strage di civili, monito di Mosca, con le armi degli Stati Uniti a Kiev sarà un'escalation. Poi ne parleremo, piano della Grecia, l'Eurogruppo che si terrà domani, ma oggi al G20 la Germania fa muro e Tsipras, primo ministro greco, apre al Presidente della Commissione Europea Juncker. Caos delle riforme alla Camera, in Italia si dimette il relatore di Forza Italia, che sentiremo più tardi, e il governo prova a chiudere sulle riforme entro sabato. Approvato il decreto antiterrorismo, l'ha approvato il Consiglio dei Ministri, sarà reato combattere all'estero. E poi il Washington che conferma la morte della 27enne cooperante americana Kayla Jane Mueller, era ostaggio dell'ISIS. Padoan, il ministro dell'economia italiana, vede la ripresa, anche di questo parleremo dopo. E poi il giudice della Corte dei Conti, il presidente della Corte dei Conti, che dice: la corruzione in Italia è devastante, c'è il rischio di assuefazione. E poi ve lo dicevo, è appena iniziato il 65esimo Festival di Sanremo. Alessandro Merli, naturalmente inviato del Sole 24 Ore di Istanbul, non seguirà il festival. Caro Alessandro, ha seguito invece un festival ben più importante, che è quello del G20. Ciao Alessandro. Non so se è più importante, ma comunque non mi dispiace in questo momento di non sentire il Festival di Sanremo, francamente. E lui a fare cose più importanti. Oggi è stata l'ultima giornata della conferenza tra i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali, che fanno parte del G20, del gruppo di questi grandi paesi. Anche in Turchia, però, la Grecia ha dominato la discussione, no? In vista della riunione dell'Eurogruppo, Alessandro, e c'è stata un po' di rigidità, tanto per esempio, da parte della Germania. Com'è andata? Ma di fatto la Grecia ovviamente non era all'ordine del giorno, ma ha un po' dominato, come dicevi, la discussione. Rigidità dalla Germania, diciamo che ci sono dei toni un po' diversi, come sempre fra gli europei, però tutto sommato tutti i ministri dei grandi paesi europei qui hanno tenuto la stessa linea, cioè aspettiamo di vedere che la Grecia ci presenti un piano. Quello che è uscito oggi, le indiscrezioni che sono uscite oggi, non sono piaciute molto ai ministri europei. Poi appunto i toni sono un po' diversi. Il ministro Padoan ha detto: spero, comunque vedo un esito positivo di questa trattativa che di fatto parte domani. Schäuble ha ricordato che appunto la Grecia in qualche modo dovrà poi rispettare gli impegni che prende se effettivamente vuole ricevere gli altri aiuti europei sotto qualche forma. Comunque diciamo che c'è questa posizione di attesa, anche perché in questo momento, diciamo, da quando si è insediato il governo greco non è che sia stato molto incoraggiante quello che ha fatto dal punto di vista degli altri europei, e su questo direi che non c'è una differenza sostanziale fra la Germania, diciamo Francia, Italia e Spagna, che sono gli altri tre grandi paesi che erano rappresentati qui a Istanbul. E a proposito di Italia, Alessandro, per chiudere, Padoan mi sembra che abbia dato anche buoni segnali per quanto riguarda almeno notizie ottimistiche sull'andamento dell'economia italiana, vero? Ecco, Padoan per il secondo giorno consecutivo ha detto può anche darsi che dal punto di vista della crescita ci siano delle sorprese positive, le ha chiamate così, e mettendo assieme diversi fattori, uno è l'euro debole, l'altro è la partenza dello stimolo monetario da parte della Banca Centrale Europea e anche qualche effetto un po' delle riforme. La cosa secondo me interessante è non solo che questo l'ha detto Padoan, ma lo ha detto anche lo stesso Schäuble, cioè il ministro delle finanze tedesco, ha detto ci siamo confrontati tra i ministri del G20 e una delle ragioni per avere un po' più di ottimismo sulle prospettive dell'Europa è il fatto che a nostro parere l'Italia sta cominciando a riprendersi, quindi il fatto che lo abbia detto Schäuble e non solo Padoan forse è una ragione di qualche ottimismo in più. Ecco, se ce lo dice un tedesco forse rinforza la convinzione che possa essere così. Grazie Alessandro Merli da Istanbul, ciao, buona continuazione. Grazie a voi. Proviamo a alzare, saremo sul palcoscenico, c'è Chiara che canta Straordinario, se non sbaglio. Purtroppo, anzi, esplode in Ucraina questa crisi ormai, c'è poco di straordinario, ormai è diventata routine da 10 mesi di guerra praticamente, si dice sempre la crisi ucraina, ma è guerra vera e propria, è sempre altissima la tensione in questi 10 mesi di guerra tra ribelli filorussi e l'esercito regolare ucraino. Oggi c'è stato un altro bombardamento nell'est del paese, sono una 15ina di morti, ma ogni tanto sale il bilancio, vedo delle agenzie, poi una 60ina i morti, e questo alla vigilia del vertice di Minsk che dovrebbe essere tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, François Hollande, presidente francese, il presidente russo Putin e quello ucraino Poroshenko. E, i colloqui di Minsk si concentreranno sulla delimitazione di una zona demilitarizzata in Ucraina e sull'inizio, possibile inizio di un dialogo tra appunto l'esercito ucraino e i ribelli filorussi. Ma ne parliamo con Vittorio Emanuele Parsi. Ciao Vittorio. Esperto di geopolitica, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Gentiloni, tra l'altro, il ministro degli esteri italiano, oggi ha detto se il dialogo fallisce è colpa di Mosca. E poi c'è molta tensione tra Stati Uniti e Putin, no? Perché Putin dice se è vero, come ha detto più volte Obama, ha intenzione di armare Kiev, allora insomma succederà di peggio, ci sarà una destabilizzazione, ha detto lui. Mi pare che Putin stia già destabilizzando abbondantemente l'Ucraina da quando ha invaso e annesso la Crimea. È chiaro che non si può, io direi, quando si dice che la soluzione diplomatica non conosce alternative, significa semplicemente che si esclude un intervento militare diretto nei confronti dell'Ucraina per poter difenderla come potenziale alleata. Però è evidente che se Putin non smette di inviare truppe sotto mentite spoglie, di rifornire di armi pesanti i ribelli, è molto difficile che si arrivi a una tregua. La tregua può essere concessa solo a una condizione, che non sia il passaggio per una futura annessione dell'Ucraina orientale alla Russia. Un conto è l'autonomia, la più ampia autonomia che è la soluzione possibile per queste popolazioni all'interno della federazione ucraina. Un conto è invece l'annessione a Mosca. Va anche detto che i ribelli, nel momento in cui hanno scelto di farsi armare, di farsi rifornire, di accettare truppe russe a loro sostegno, hanno di fatto sancito l'impossibilità del riconoscimento internazionale di una loro secessione, perché un conto è il diritto all'autodeterminazione dei popoli, sacrosanto, e un conto è invece la possibilità per un paese lì confinante di annettere i territori di un altro Stato, come è successo in Crimea da parte russa. Ma tra l'altro c'è stata una risposta un po' ambigua di Putin fra le varie cose che ha detto, almeno riprendo così delle agenzie, ha detto che noi siamo per cercare una via diplomatica, però allo stesso tempo ha ribadito la Russia continua la sua politica estera indipendentemente dalle pressioni in quello che lui stesso Putin ha definito come un ambiente internazionale difficile. Mi dice noi comunque senza pressioni, anche con le pressioni andiamo avanti nella nostra politica estera. a Putin fa lo smargiasso. D'altra parte si è costruito questo personaggio tutto muscolare, zar Putin. La cosa paradossale è che uno come Putin, che ha una fobia nei confronti dei gay, che li perseguita dal punto di vista con le leggi che producono i russi e con l'atteggiamento culturale che hanno, che Putin così incoraggia, è la perfetta icona del mondo omosessuale, questo uomo muscoloso con in mano il tigrotto, tutto macio, cioè sembra uno dei village people nelle sue cose, diciamo. Questa non l'avevo mai sentita, vero, effettivamente. Però se ci pensi, un'icona gay, glielo diciamo a Putin. È la Russia che si sta creando un ambiente ostile, perché si comporta in una maniera che è inaccettabile, ripeto. Annettere con la forza i territori vicini, ridisegnare i confini con l'uso della forza è inaccettabile, perché è pericolosissimo. L'hanno già fatto, non possiamo consentire che vadano avanti a farlo. Vittorio Emanuele Parsi, non ci resta per il momento che attendere questo vertice domani e capire. Sperando che ci sia. Sperando che ci sia, certo. Potrebbe essere annullato all'ultimo oppure per questioni di emergenze. Staremo a vedere. Grazie intanto, Vittorio Emanuele Parsi. Grazie a voi. Ciao. Intanto vedo Emma Marrone, che è una delle donne che affiancano Carlo Conti al Festival di Sanremo. Stanno lanciando un'altra canzone che arriva. Ah, è Gianluca Grignani. Sì. Codice 02, via al televoto da telefono fisso 894001. Con il cellulare un sms al 475. Si vota, lo sapete, c'è il voto anche da casa ormai da qualche anno come tradizione. Sogni infranti di Gianluca Grignani, dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino. Tanto per stare sull'ottimismo, insomma, sogni infranti quello di Gianluca Grignani. Vogliamo sentire giusto l'incipit di questa canzone? Si è tagliato i capelli. Se nasce non conosce inverno, ed io ci credo, ma credo anche a questo caos che diventa inferno, perché lo vedo. È sempre il suo solco, sempre molto piacevole Gianluca Grignani. Amore, quello è il suo tema. Mentre la politica, la vedo sui vostri messaggi sms al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giovanni dice: se Forza Italia ha agito per il paese vuol dire che ha cambiato il suo DNA. E poi è ovvio che Forza Italia cercava lo scambio riforme Quirinale, non solo su questo. A proposito, vi dicevo, dell'accusa del deputato Speranza del PD, che dice: è stato al tavolo con noi Forza Italia perché voleva uno scambio riforme Quirinale. Pier, domani a quest'ora avremo la soddisfazione di sapere se siamo con Putin o se ci chiuderà il metano. Poi Ugo di Milano: cosa ci fosse nel patto del Nazareno non è tutto chiaro. Chiaro è che Renzi abbia dato un colpo all'accordo, oppure che sia una tattica per accordarsi di nuovo. Ormai sono diventato cinico e diffidente. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano, sempre i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito di quanto ha detto oggi il capogruppo alla Camera del PD Speranza, dicendo, insomma, non è che Forza Italia per caso è stata con noi al tavolo per uno scambio riforme e Quirinale. Intanto prosegue la 65esima edizione del Festival di Sanremo, che vi faccio sentire a spizzichi e bocconi. Adesso vedo Alex Britti, vogliamo sentire qualche attimo? Al televoto. C'ha la sua è comparsa Arisa, l'altra compagna di palcoscenico di Conti, mi piace chiamarle Valletta. Non niente, dai. Allora, 894001 è il sole di Sanremo meraviglioso. Da telefono fisso oppure SMS 475-475-1 con un SMS. Il codice 03, la canzone. Un attimo importante di Alex Britti. Dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino. Arisa, che sa che ha una voce, diciamo, più apprezzabile quando canta, ma insomma, è simpatica anche così. Canta Alex Britti. Chitarrista. questa e va insomma di basso. Regalami un istante. Concentriamoci sui nostri istanti adesso. Sentito l'incipit, vi dice uno dei messaggi, dice: PD, partito arrogante, ha vinto le elezioni col 27%, a tutte le cariche istituzionali, vuol fare le riforme che lo favoriscono e dopo dà la colpa agli altri che non ci stiamo. Siamo quasi alla dittatura, dice un'ascoltatrice, un ascoltatore, non si firma. Ma intanto vi ricordo quali sono le notizie principali di questa giornata. Avete sentito, allora, la Cassazione sull'omicidio di Melania Rea ha chiesto che sia ridotta la pena per Parolisi dai 30 anni a cui è stato condannato. E poi la guerra in Ucraina, Putin avvisa Obama, ci sarà destabilizzazione se l'America arma Kiev, strage di civili intanto nell'est del paese. Oggi G20 di Istanbul, stop al piano di aiuti alla Grecia e la vigilia dell'Eurogruppo, Berlino avverte nessun accordo, ci sarà domani. Sicurezza, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto antiterrorismo, il caos alle riforme alla Camera, si dimette il relatore di Forza Italia. Il governo prova a chiudere per sabato. L'omicidio di Iare, ampliata la gravità indiziaria per Bossetti, che non viene scarcerato, respinta la scarcerazione anche per il rischio di reiterazione del reato. I veleni alla procura di Milano, Robledo ebbe uno scambio di favori con la Lega, per questo il Consiglio Superiore della Magistratura sposta il magistrato al Tribunale di Torino. E poi l'anniversario delle foibe, oggi è il giorno del ricordo per quello che accadde 70 anni fa e avete sentito la 65esima edizione del Festival di Sanremo. E andiamo adesso di nuovo alla politica, una nuova puntata della politica italiana dopo il patto del Nazareno, quello tra Renzi e Berlusconi, giudicato ormai rotto dall'ex cavaliere dopo la candidatura e l'elezione a capo dello Stato di Sergio Mattarella, al quale che con Brunetta che ieri ha detto, avete sentito senza tanti giri di parole, che Renzi è un imbroglione e ha fregato Berlusconi. E dopo che ieri si è parlato anche qui a Effetto Notte con il senatore di Forza Italia Malana di una probabile alleanza con la Lega, oggi c'è una nuova tappa nel rapporto tra i partiti e anche nel percorso delle riforme. Si è dimesso da relatore delle riforme istituzionali a Montecitorio Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali. Lo ha comunicato lui stesso oggi nell'aula della Camera durante la discussione sul disegno di legge costituzionale che porterà al superamento del bicameralismo perfetto e alla revisione di parte della Costituzione, appunto le riforme. Sisto, che tra l'altro condivide questo ruolo di relatore con Emanuele Fiano del PD, ha spiegato di dimettersi, queste sono le sue parole, col dolore profondo del giurista cui viene data l'occasione di riscrivere la Costituzione, ma con la coerenza di un'appartenenza a un partito senza opportunismi. E allora lo saluto, l'onorevole Francesco Paolo Sisto, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Questo dolore di cui parla è senza opportunismi, è profondo. Immagino, ma è dovuto più al fatto che magari avrebbe voluto, cioè volevo ma non posso, oppure proprio che le cose non sono andate come il partito voleva, come anche lei voleva, e quindi posso interpretazione sua, sì. Io ho detto che in politica le persone contano e quindi ci sono delle priorità. La prima, la priorità fondamentale è la coerenza e l'appartenenza, il motivo per cui avendo Forza Italia dismesso la linea transattiva del patto col PD, per cui adesso non c'è da rinunciare più a niente, c'è da votare felici di votare quello che ci piace, è evidente che per questa coerenza e appartenenza io non potessi tenere il ruolo di relatore. E il dolore è a partire dall'altra anima, che è quella del giurista. Io sono nato tra i codici, ovviamente essere relatore della riforma costituzionale costituisce un grande onore, una grande opportunità, per la verità devo dire mi è costato sul piano personale, non mi è costato affatto, anzi è stato doveroso farlo sul piano politico e del rispetto anche delle istituzioni. Quindi sono tornato all'imparzialità della presidenza della commissione, che è un ruolo che intanto posso gestire se sono capace anche di scelte di questo genere. E per quanto riguarda le riforme, il percorso delle riforme, intanto sentiamo che cosa ha detto oggi Brunetta di Forza Italia. Per tutte le ragioni espresse dal Presidente Emerito De Siervo e per ragioni che ho elencato, in nome del principio di precauzione dinanzi a così autorevoli allarmi, chiediamo alla maggioranza di fermarsi. Noi faremo di tutto in nome di una scelta morale, di convinzione e responsabilità politica per rallentare questo percorso verso il disastro. Quali sarebbe il disastro, Francesco Paolo Sisto? Il disastro, secondo Forza Italia, è questa riforma che presenta più ombre che luci, a cui noi abbiamo collaborato, ripeto, rinunciando a buona parte del nostro DNA, ma che oggi in qualche maniera con lo scioglimento del patto del Nazareno non possiamo che rivedere alla luce di quelle che sono i nostri principi. Mi riferisco per esempio anche alla forma dell'apparente, diciamo del monocameralismo apparente, cioè in realtà sostanzialmente il Senato rimane come una sorta di ombra che sovrasta la Camera, di complicanza codificata per il percorso delle leggi, diciamo che probabilmente il Senato andava abrogato completamente. Questo era il volere di Forza Italia. Quando noi abbiamo fatto nostre riforme costituzionali parlavamo di un monocameralismo secco. Abbiamo fatto una transazione col Partito Democratico su questo mezzo Senato, senaticchio se vogliamo chiamarlo così. Beh, io credo che oggi siamo in condizione di dire come la pensiamo e sulle altre parti della riforma non ancora diciamo toccate dire la nostra, per esempio sul procedimento legislativo, sulla clausola di supremazia, su tutto quello che ancora c'è da votare alla Camera e ci sarà da votare al Senato, tenuto conto che nella Commissione, in Aula, siamo intervenuti su oltre 50 punti rispetto a quello che il Senato aveva scritto sulle riforme. Quindi tornerà al Senato con il rischio, tra virgolette, la possibilità, a seconda delle prospettive, questa riforma di essere cambiata in numerosi punti. Non posso dimenticare di segnalare che mentre alla Camera il governo ha una maggioranza diciamo così tranquillizzante, al Senato ha soltanto un più 11 che a mio avviso imporrà a tutti, governo e opposizione, una grande attenzione. 11 numeri in più sono davvero pochi nelle aule parlamentari. Ha sentito che dai vertici del PD hanno detto il governo non si ferma in ogni caso. Lotti, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, braccio destro di Renzi, ha detto il patto di Nazareno sono le riforme che portiamo avanti, vedremo in aula che cosa farà Forza Italia, ma non ci pare che all'interno ci siano idee chiare. Non no, guardi, idee chiare noi le abbiamo, tant'è che voci di Berlusconi, di Raffaele Fitto, di Brunetta. Siamo di fronte ad un peana di scioglimento del patto e di presa di distanze. Una cosa non va ancora dimenticata: noi abbiamo sempre fatto opposizione alla politica del governo e intanto siamo stati più flessibili solo e soltanto sulle riforme, e questo ovviamente ci espone ad un indebolimento ideologico che però adesso ci siamo ripreso tutto. Quindi io non vedo affatto un disorientamento all'interno di Forza Italia, ci sono delle dinamiche, va bene, un partito moderno è un partito dinamico, non è un partito paludo, io preferisco il vento fresco del maestrale del dibattito alla calma piatta. Forza Italia indubbiamente si evolve, cresce, ha dei movimenti che consentono al partito di cercare di riprendersi gli elettori che non vanno a votare e quelli che magari disorientati possono aver votato per altro. Quindi mi sembra che questo è un bel segnale di compattezza dinamica e di idee chiare, dice lei. Sì, torniamo in pista, siamo tornati in pista a pieno regime, a tutto vapore. Però ha sentito l'accusa piuttosto dura del capogruppo del PD alla Camera, Roberto Speranza, che ha detto è stato positivo che Forza Italia stesse al tavolo, sarebbe stato utile continuare, ma cosa è cambiato, dice, dal 31 gennaio? Solo un fatto, l'elezione di una persona straordinaria come Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Aspetti. E allora dice Speranza, ho un sospetto, Forza Italia è stata al tavolo nell'interesse del Paese o nella prospettiva di uno scambio riforma Quirinale? Guardi, Speranza credo che avesse preparato questo discorso da un bel po', perché forse non si è puntualmente aggiornato su quello che è accaduto in queste ore. L'abbiamo detto, stradetto e ridetto, massima fiducia, apprezzamento e stima nei confronti del Presidente Mattarella, che io ho applaudito alzandomi alla sua espressione sarò imparziale, che non è un programma, è un impegno. Quindi nessuna, come posso dire, nessun sospetto sul fatto che noi abbiamo un Presidente della Repubblica autorevole, colto e capace. Il metodo è un'altra cosa. Cioè, il PD era impegnato a sedersi a un tavolo e non l'ha fatto con noi per individuare il Presidente della Repubblica, l'ha fatto con altri, ridicolizzando un biglietto Forza Italia. Si è preso il sorriso di SEL, della minoranza DEM, di altre componenti. Bene, ognuno è libero delle sue scelte, noi rimaniamo liberi delle nostre. Non è stato certamente simpatico assistere a questo cambiamento di accento e di pensiero sul metodo di individuazione del Presidente della Repubblica, e come lei sa in politica il metodo spesso conta più del merito. La ringrazio con questo, onorevole Sisto. Un davvero piacere. Grazie, reciproco. Arrivederci e buonasera. Salve. Abbiamo la viabilità, sì, aggiorniamo chi sta viaggiando. Poi ancora i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Anche un'altra notizia con quella che riguarda il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha telefonato oggi al presidente Putin per sottolineare l'escalation di violenza nell'Ucraina orientale, quella che Washington denuncia come il protrarsi del sostegno della Russia verso i separatisti. Insomma, c'è questo incalzare, crescere purtroppo, come tra le primissime notizie della crisi e della guerra in Ucraina. Poi c'è il piano della Grecia, l'Eurogruppo, domani se ne discute, ma la Germania fa muro, il primo ministro greco Tsipras apre intanto al Juncker, presidente della Commissione Europea. Caos e riforme alla Camera, ne abbiamo appena parlato con l'onorevole Sisto, che si è dimesso di Forza Italia, relatore delle riforme. Governo prova a chiudere entro sabato. Approvato il decreto antiterrorismo questa sera dal Consiglio dei Ministri. E poi Padoan, che vede il ministro dell'Economia alla ripresa per quanto riguarda il nostro paese. L'Italia sta accelerando, va bene l'industria. E poi la Corte dei Conti, il monito del presidente, che dice la corruzione in Italia è devastante. E il 65esimo Festival di Sanremo, c'è Malika Ayane. Vogliamo sentire qualche istante della sua canzone Adesso qui. A noi che non cambiamo più, silenzi per cena, conoscersi, lasciarsi le mani, non è quello che ci spetta. Andiamo con l'Europa. Né buone idee, né pace per strada. Europa 24 notte. Europa che fa mea culpa dinanzi all'ennesima tragedia del mare, quella di ieri, 29 morti assiderati. Deve essere fatto di più, scrive in un tweet il commissario dell'Unione Europea all'immigrazione. Ogni vita perduta è una di troppo, la nostra lotta contro i trafficanti continua in modo costante e coordinato, ma non basta. Le polemiche non si placano. Nel mirino la missione europea per il controllo delle frontiere, Triton o Triton, che dal 1 novembre scorso ha sostituito l'operazione umanitaria italiana Mare Nostrum. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Fulvio Di Giacomo dell'Organizzazione Internazionale Migranti. Noi abbiamo più volte sostenuto che Mare Nostrum avrebbe dovuto continuare ad operare perché aveva dimostrato la capacità di salvare migliaia di vite umane. Se qualcuno aveva accusato Mare Nostrum di attrarre migranti proprio per la capacità di recuperare in mare e portare in salvo le imbarcazioni cariche di persone, beh, diciamo che è stato smentito. Mare Nostrum non c'è più, eppure gli arrivi si infittiscono, sia dalla Turchia che dalla Libia. E questo perché? Perché in realtà gli arrivi sono stati causati non dal fatto che ci fosse un'operazione in grado di operare operazioni di salvataggio in alto mare, quanto da crisi grosse che si svolgono soprattutto ai confini dell'Europa. L'Europa secondo lei che cosa dovrebbe fare? La situazione è molto difficile sicuramente. La nostra preoccupazione, la preoccupazione dell'Europa, innanzitutto la priorità deve essere quella di salvare vite umane. E invece Triton, che sostituisce Mare Nostrum, è nato ufficialmente per controllare le frontiere, è differente. Quindi innanzitutto ritornare a salvare vite umane, perché se i flussi aumenteranno o comunque continueranno sugli stessi livelli dell'anno scorso, potremmo purtroppo vedere altri naufragi. Quindi più accoglienza, non contenimento ma più accoglienza. Assolutamente sì, perché se parliamo di persone che comunque per la maggior parte hanno diritto a qualche tipo di protezione in Europa, sono persone che comunque vanno accolte, anche perché sono vittime, anche coloro che non vengono direttamente da fuggono da paesi in guerra o da regimi, anche coloro che vengono da paesi subsahariani magari per motivi economici, sono persone che cadono vittime di reti, di trafficanti estremamente violente, subiscono delle violazioni dei diritti umani. Noi abbiamo sentito delle storie incredibili in Libia, quindi sono persone che comunque vanno accolti. Poi chiaramente a seconda della legislazione del paese in cui arrivano si vedrà se tutti hanno diritto all'asilo o no, però innanzitutto quello di contenere non è una soluzione. Quello che si può fare è prevenire, ossia offrire alternative alle persone che si trovano nei paesi di transito, alternative per chi ha diritto a protezione, magari di poter trovare canali di entrata legale che permettano a queste persone di arrivare in Europa in condizioni di sicurezza senza tentare la traversata in mare, ma anche alternative negli stessi paesi di transito, magari cercando di lavorare con questi paesi per far sì che i migranti che si trovano sul loro territorio perlomeno possano avere un'alternativa a rischiare la vita in mare. Chiaramente non esiste una sola soluzione, bisogna trovare tutto un ventaglio di soluzioni e alternative da poter offrire alle persone in fuga per impedire che poi cadano vittime dei trafficanti. In questo senso varrebbe la pena aumentare il dialogo, migliorare il dialogo, anzi probabilmente aprire un dialogo tra gli Stati membri dell'Unione Europea e i governi dei principali paesi di transito che si trovano lungo la rotta dei migranti, per cominciare a trovare delle soluzioni comuni che perlomeno nel medio e lungo termine possano essere messe in atto e cercare di risolvere il problema, o perlomeno di contenerlo. Invece nell'immediato, nel breve termine, la prima cosa è sicuramente quello di salvare vite umane, quindi di far sì che le imbarcazioni che pattugliano il Mediterraneo abbiano un'estensione geografica che sia superiore alle 30 miglia che in questo momento ha Triton. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Invece con Raffaella Calandra, che saluto, ciao Raffaella. Ciao Roberta. Ci soffermiamo sulla notizia che avevo dato in apertura, cioè della sentenza della Cassazione sul caso dell'omicidio di Melania Rea. E, la Cassazione ha chiesto di ridurre la pena per Salvatore Parolisi, caporal maggiore, marito di Melania, accusato di averla uccisa, e dice di eliminare l'aggravante della crudeltà. E questo ti volevo chiedere anche, Raffaella Calandra, quante coltellate aveva ricevuto Melania Rea? 35, se non è crudeltà quella. Allora, capiamo un paio di cose sulle modalità con cui i giudici della Suprema Corte, diciamo, operano. Innanzitutto la Cassazione ha stabilito che Parolisi è il responsabile dell'omicidio di Melania Rea, quindi ha confermato le sue responsabilità, diciamo, in quel delitto. Ha disposto un nuovo processo d'appello che si celebrerà davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia. Un nuovo processo d'appello per ricalcolare la pena. Cioè i giudici dicono che quell'aggravante della crudeltà, che è un aggravante che porta ad un aumento, diciamo, della pena, deve cadere, e quindi altri giudici in secondo grado devono stabilire a quanto deve essere condannato Parolisi. Questo non vuol dire che il delitto non sia stato crudele, a parte che si potrebbe, diciamo, riflettere, ma queste sono altre valutazioni, che ogni delitto è crudele, un delitto della consorte con 35 coltellate, cioè, poi anche con le modalità, gli stessi, una bambina piccola, sì, anche i PM, insomma, hanno più volte detto che lui aveva anche depistato le indagini, ma sono altre le categorie con cui i giudici valutano i casi e vanno a stabilire quello che gli atti hanno ricostruito. Adesso staremo a vedere che cosa scriveranno nelle motivazioni della sentenza, come sempre si dice in questi casi, ma probabilmente avranno valutato il fatto che non ci sia stata premeditazione, il fatto che probabilmente sia stato un delitto d'impeto, cioè un aggravante che in qualche modo, da un punto di vista formale, per quello che il codice stabilisce per l'aggravante, deve cadere. Quindi ora altri giudici dovranno valutare quanti anni di carcere Parolisi dovrà effettivamente scontare. Secondo un calcolo fatto dal suo avvocato saranno meno di 20. Da 30 diventano meno di 20. Lui in primo grado era stato anche già condannato all'ergastolo, ergastolo, poi 30 in appello, e poi appunto dovrebbero essere meno di 20. Quindi meno di 20, poi magari sconti di buona condotta. È la legge, si vedrà. Ci dici solo in che tempi potrebbe avvenire il nuovo processo? Bisogna incardinarlo, dipende da come è messo il Tribunale di Perugia. Quindi sicuramente il processo durerà molto poco, poi, perché si tratta soltanto di ridefinire, di ricalcolare. Ma quando comincerà il momento non è possibile dirlo. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Adesso invece volevo cercare di vedere se si alzava il volume, invece c'è la pubblicità su Rai 1, c'è la nostra Marta Cagnola a Sanremo. Ciao Marta. Sì, c'è la pubblicità in questo momento, hanno già cantato 4 big su 10 e non è male come media, perché sono le 21.55, erano iniziato le 21.18, quindi direi che a Sanremo stanno trottando. Marta, sono più delle riforme, più delle riforme italiane. Senti Marta, fra l'altro mi sembra che sia l'insegna di qualche revival, no? Si parla tanto di Albano e Romina, poi torna Marco Masini, anche Grazia Di Michele. Sì, allora Marco Masini che ritorna con un pezzo molto grintoso, molto carino, guarda, a me piace molto. Torna, beh, è tornato Nek dopo 18 anni, anche Alex Britti mancava da un po', Raff che mancava da un po' anche lui, Grazia Di Michele che è venuta in realtà, dice, soprattutto per accompagnare Platinette, e quest'anno, l'hai detto, Albano e Romina che saranno gli ospiti di questa serata tra un po', manca ancora un po' di tempo perché devono cantare ancora un po' di cantanti, e soprattutto adesso si è esibirà Tiziano Ferro, un altro ospite. Albano e Romina, vi posso posso già dire che canteranno Cara terra mia, ci sarà e Felicità, e noi siamo già pronti a fare il coro. Quindi i classici cavalli di battaglia loro, insomma. Sì, sappiamo tutti, dai. Senti, c'era anche un po' di sociale, mi sembra di aver visto dalle immagini dei bambini portatori di handicap, allora, forse ho visto sul palcoscenico. No, in realtà era la famiglia più numerosa d'Italia, 16 figli. C'è stato qualche così un po' di applausi e un po' di contestazioni, perché in realtà è una famiglia, come c'è da aspettarsi, molto religiosa, e quindi ha portato tutto il suo messaggio sull'importanza della fede. Insomma, Carlo Conti lo sapeva bene come uscire da questo momento, perché forse non l'aveva previsto esattamente così. Però insomma, erano tanto carini i bambini, erano tanti, 16 figli. Aveva detto senza perturbazioni, Conti, già qualche perturbazione c'è, ma ci risentiamo domani, vediamo che cosa succede. A domani, Roberta. Ciao Marta Cagnola. Ci fermiamo qui e ci risentiamo, lo sapete, tra pochino.